penso all'inizio della mia esperienza calabrese, 2 anni e mezzo fa, la differenza mi sembra notevole. C'è una presa di coscienza ancora, naturalmente soltanto in alcuni settori della società, del fatto che la 'ndrangheta è probabilmente il primo problema e comunque un gravissimo problema della società calabrese, che ne condiziona lo sviluppo economico, civile, democratico. Ci sono state di sicuro delle manifestazioni. In una realtà così difficile sono un segnale di una presa di coscienza. C'è stata la manifestazione della gente dopo la bomba alla Procura Generale di Reggio Calabria. Ci sono stati attestati di solidarietà, diciamo, manifesti anche nel momento in cui lei stesso è stato diretto destinatario di una grave intimidazione. Ecco, quindi anche questi, secondo lei, anche questo tipo di manifestazioni hanno un'importanza? Sono importanti, non dimentichiamo, se andiamo alla esperienza palermitana, che una delle prime manifestazioni di una società che anche allora, 20 anni fa, era estremamente bloccata, fu quella dei lenzuoli, certo, di protesta contro le stragi mafiose e di appoggio alla magistratura e alle forze di polizia. Restando alla città di Reggio, che ci siano centinaia di persone che scendono in piazza con la loro faccia, questo può sembrare normale a Milano o a Torino, ma non lo era a Reggio Calabria, e protestano per quello che è avvenuto, e peraltro questo riescono a fare ormai da un anno, ogni mese, perché ogni mese, più o meno il giorno 3, il giorno del primo grave attentato alla Procura, già, certo, c'è una manifestazione, a volte in piazza, a volte in un teatro, un convegno. Questo però si ripete. Tutto questo mi sembra molto importante. Persone che ci mettono, ripeto, la loro faccia, mi sembra una cosa importante. E mi sembra anche che sia la prima e più grave sconfitta per chi ha organizzato durante tutto quest'anno terribile, che è stato il 2010, queste gravissime intimidazioni, che non solo non hanno affatto intimidito, come era ovvio, i magistrati bersaglio di queste minacce. Non dimentichiamoci che molti miei colleghi hanno ricevuto lettere anonime accompagnate da proiettili e così via. Giornalisti hanno avuto bruciato le macchine, non solo, ma la magistratura e anche la stampa ha continuato a fare il suo lavoro. Ma ripeto, al contrario, si è espressa questa ribellione, questa protesta, che ancora è limitata, diciamo, a centinaia di persone, ma non è una cosa da poco.